versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo venerdì 11 di luglio, siamo in diretta dai studi Radio 24 di Milano, 16:36, primi 40 secondi, un augurio a chi oggi festeggia, si chiama Benedetto, Benedetto da Norcia, quindi una delle più grandi figure della storia del nostro paese. Detto questo, il tema del giorno, oggi mi rivolgo in particolare... non perché siano tutti in ascolto, però innanzitutto a quei 5 milioni di italiani, sono almeno 5 secondo le stime prudenziali i milioni di italiani che impegnano il loro tempo gratuitamente come volontari nel terzo settore, cioè nelle diverse associazioni della sussidiarietà civile. Ve ne sono molte che si danno da fare per gli anziani, gli disabili, per l'assistenza sanitaria, come nell'ambito delle attività culturali, eccetera eccetera. Allora, perché mi rivolgo a loro? Non solo a loro, ma innanzitutto a loro, perché dal Consiglio dei Ministri di ieri è uscito un disegno di legge, quindi non un decreto, una volta ogni tanto una proposta che dovrà essere sottoposta all'esame parlamentare, nella quale il governo Renzi, che tiene molto al terzo settore, il Presidente del Consiglio, ricordate il suo passato di scout, mette mano a una riforma complessiva del settore, cioè di tutto il volontariato italiano. Un intervento rispetto al quale io lo dico subito, ma non voglio ovviamente influenzare nessuno, ma la mia opinione, che non nascondo mai sui diversi argomenti di cui parliamo, io sono un po' diffidente, perché io apprezzo innanzitutto lo slancio, perché il terzo settore è trascurato dallo Stato, è trascurato, voglio dire, è anche offeso dallo Stato, perché da molti anni, ricordate, fu Giulio Tremonti a istituire nel nostro ordinamento, e se ne vantava puntualmente, di che cosa? Della modalità del finanziamento alle associazioni del terzo settore secondo un meccanismo di libera espressione delle volontà dei contribuenti, il famoso 5 per 1000. E allora direte voi, e come? Lo Stato l'ha introdotto perché dici che offende il terzo settore e milioni di volontari italiani. Lo offende perché da allora lo Stato non ha mai stabilizzato quella fonte di finanziamento che ha introdotto nell'ordinamento, perché di anno in anno si è sempre dovuto attendere che alla fine il Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato confermasse o meno per l'anno successivo le attribuzioni di risorse, o anteponesse invece le esigenze di cassa dello Stato. Questa mancata stabilizzazione, ne abbiamo parlato in alcune trasmissioni in passato, impediva, come ovvio, alle associazioni, alle imprese del terzo settore, alle associazioni del terzo settore, di poter contare con relativa certezza sui flussi finanziari, quindi spesso impediva persino di fare i bilanci, e lo Stato si è sempre comportato così. Questa è la ragione fondamentale per la quale io un po' diffido, a dirvi la verità, perché io innanzitutto nel testo del disegno di legge avrei gradito trovare un numero o dei numeri che finalmente trasmettessero la scelta fatta da questo governo per dare certezza ai meccanismi di finanziamento e degli incentivi fiscali al terzo settore, che è il secondo pilastro decisivo con cui lo Stato può fare per il terzo settore, cioè disciplinare in maniera incentivante fiscalmente le attività del terzo settore. Allora, la mia prima delusione, ve lo dico subito, è che nel testo c'è una promessa di stabilizzazione del 5 per 1000, ma la promessa non è esecutiva per come è scritta, perché bisogna sempre passare per il MEF, e quindi io un po' diffido. E anche in quanto agli incentivi, c'è scritto che si attuerà una razionalizzazione, però non si dice quale, e quindi io da questo punto di vista già rimango molto deluso. Poi ci sono molti aspetti toccati, secondo me alcuni positivi, per esempio si prevede l'introduzione di una forma di finanziamento, i social bonds, per le imprese del terzo settore, che secondo me sono una maniera adeguata, se lo strumento verrà ben disciplinato, per portare risorse aggiuntive a questo tipo particolare di attori economici, che come ovvio non lavorano per il profitto, ma lavorano per costruire capitale sociale. E quindi secondo me è adeguato immaginare uno strumento di raccolta finanziaria, una obbligazione, che però sia parametrata a rendimenti del capitale molto più bassi, stante la particolare natura di chi opera nel terzo settore. Quello che non mi convince invece è questa specie di grande albo centrale che viene messo, viene proposto per tutte le imprese del terzo settore, primo, e secondo il prevedere una forma giuridica un po' irreggimentante per tutti quelli dell'impresa sociale. Io credo che la sussidiarietà della società civile deve essere lasciata libera di organizzarsi nelle diverse forme di impresa che oggi sono coerenti nel nostro ordinamento con il non fine di lucro, da quella cooperativa eccetera eccetera. Non mi convince troppo un albo centrale, perché? Perché l'esperienza alle nostre spalle, per esempio per l'associazione dei consumatori con il loro albo al MISE, al Ministero dello Sviluppo, ha creato negli anni una specie di piccola greppia di Stato, perché con tanto di finte iscrizioni dichiarate dall'associazione dei consumatori, una mia vecchia polemica. Quindi io un po' diffido del fatto che lo Stato voglia decidere lui e mettere le mani dentro. Apprezzo alcune cose positive come i social bond, non mi piace che non ci sia un impegno concreto sugli incentivi fiscali e sulla stabilizzazione del 5 per 1000. E poi c'è anche un'altra novità su cui invece meglio sentire l'opinione di tutti, e innanzitutto di quelli del terzo settore, come su tutti questi punti, cioè l'istituzione di questo servizio civile per 100.000 giovani. C'era un problema per la copertura del finanziamento triennale. Io, se questa cosa funziona con libertà di scelta per gli enti per su cui prestare il servizio civile, mi sembra una cosa molto utile, un passo avanti. Se lo Stato anche lì disciplina troppo, non mi piace troppo. Però queste sono solo le mie opinioni. Comunque abbiamo con noi il portavoce del forum del terzo settore, Pietro Barbieri, che io ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. L'ho fatta un po' più lunga oggi perché avevamo delle difficoltà a trovarlo per telefono, e quindi innanzitutto chiedo a lui, che non so quanto abbia sentito di qualche mia perplessità ma anche di qualche mia valutazione positiva, qual è il giudizio del forum del terzo settore, che raccoglie moltissime associazioni di tipo diverso e con diverse finalità nel mondo delle onlus italiane, su questo disegno di legge. Voi lo conoscevate da prima o lo apprendete dai giornali come noi? Buon pomeriggio Barbieri innanzitutto. Buon pomeriggio a lei, mi dispiace che sono arrivato come dire. Si figuri. Buon ultimo. Insomma, ho ascoltato dal 5 per 1000 in poi, sì, e devo dire che le perplessità in larga misura le condivido, un pochino meno sul tema del registro, perché il tema del registro evidentemente vorrebbe essere quello dell'unificazione di una modalità con la quale raccogliere le informazioni sulle associazioni, sulle cooperative sociali eccetera, che oggi sono, come dicono a brutto termine, titolo quintizzate. Insomma, ogni territorio ha la sua, ha il suo modo di raccogliere, ha il suo modo di caratterizzare le organizzazioni, e quindi siamo in un caos assoluto proprio dal punto di vista informativo, non dell'accreditamento delle organizzazioni, ma informativo. Quindi da questo punto di vista lei dice che ci sia una forma nazionale, è meglio? Beh sì, perché non ha il compito poi dopo di diventare il luogo di accreditamento di quelle organizzazioni che so per i rapporti con la pubblica amministrazione, piuttosto che per accedere al 5 per 1000, non è quella la funzione. Farle una domanda che viene subito da un sms di un nostro ascoltatore che si chiama Luca? Questo il registro nazionale può servire anche a evitare quello che aleggia come sospetto su alcune attività onlus, che cioè servano, siano solo di copertura e vada del fisco, dice Luca? A me capita, dice Luca, di imbattermi in cose che non mi convincono del terzo settore. Può servire anche a questo o no? Beh sì, dipende molto se questo verrà incardinato dentro quell'autorità che è prevista nel testo, che noi avremmo voluto, seguendo proprio la sua riflessione, cioè uno Stato che agevola l'autonoma capacità dei cittadini di impegnarsi per creare capitale sociale, legami, coesione eccetera, che è come dire, quella versione anglosassone dell'autorità che è la Charity Commission inglese. Allora, se fosse così, allora avrebbe esattamente quel significato. Se invece si tratta di un'autorità censoria, sono d'accordo con lei proprio dalla prima all'ultima parola. Appunto, il tema è esattamente questo. Bisogna capire poi cosa accadrà nei decreti delegati. Ecco. A parte che dovremmo vedere il passaggio parlamentare, perché spero che nel passaggio parlamentare tutta una serie di punti su cui ci sono perplessità vengono evidentemente chiariti, migliorati e riqualificati, perché il primo problema che noi notiamo, visto che lei ha il testo sotto mano, lo può verificare, che nell'articolo 2, laddove si disciplinano gli enti di terzo settore, quindi si dice cosa sono, che natura hanno, beh, lì noi troviamo 6 volte la parola controllo e anche altre esattamente volte. La parola vigilanza, insomma, non, da questo punto di vista siamo un po' preoccupati. E questa è la cosa che dicevo all'inizio, a me sembra che ci sia un po' un riflesso culturale molto pubblico rispetto alla particolarità del mondo della sussidiarietà, perché anche dal wording, dalla scelta delle parole si capisce che è un po' così, poi tutto si può cambiare, è comunque apprezzabile secondo me l'intento di dare più rilevanza a quello che milioni di italiani fanno con un impiego del loro tempo, della loro professione, delle loro vocazioni, che non è monetariamente finalizzato, per così dire, ma in realtà è capitalmente importante per il nostro paese. Torniamo dopo 60 secondi e poi chiederò a Pietro Barbieri cosa ne pensa lui, cosa ha capito lui di cosa può essere questo servizio civile per 100.000 giovani. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:48 primi 41 secondi, e con noi Pietro Barbieri, il portavoce del forum del terzo settore, che è praticamente la piattaforma più rappresentativa, non essendo esaustiva però, delle tantissime espressioni della sussidiarietà italiana. Stiamo tentando di spiegarvi meglio e capire meglio noi per primi il testo del disegno di legge ieri varato dal Consiglio dei Ministri del Governo, con un intervento organico su questo settore, cosa che secondo me è comunque apprezzabile, e soprattutto se poi dai decreti attuativi vedremo davvero stabilizzato il 5 per 1000, capiremo meglio in cosa consiste la promessa razionalizzazione degli incentivi fiscali, tanto di guadagnato. Abbiamo parlato di questo registro unico, cosa può essere una cosa positiva, se fatta in un certo modo, un po' preoccupante se fatta per controllare, idem per l'autorità del settore, viva il modello della Charity Commission britannica, che serve appunto per dare garanzia a tutti degli enti di questo tipo, più che essere una specie di poliziotto pubblico per dire sì e no. Io per esempio, Pietro Barbieri, quando stamattina ho letto la dichiarazione del sottosegretario Bobba, che pure conosco e stimo da tanti anni, che diceva insomma, a me non piace vedere nelle liste tanti circoli del golf, mi è sembrata un po' tirata per i capelli, perché innanzitutto non sono i circoli del golf il problema del volontariato italiano, però era espressione esattamente di una volontà di dire adesso ci mettiamo a controllare, diciamo, i peli nel naso, per così dire. Comunque vedremo. Lei del servizio civile cosa ha capito, Pietro Barbieri? Ma guardi, ho capito, credo di aver capito, perché poi la lettura del testo appunto è complicata, anche perché è un testo che ha all'interno materie molto diverse fra loro. Penso per esempio al tema impresa sociale, sul quale abbiamo forti dubbi. Il servizio civile ha un'impostazione generale che sta dentro, credo, le pratiche più avanzate che il Paese cercava di proporre, cioè l'idea che sia un servizio alla patria non armato, di giovani che quindi si impegnano in questa direzione, quindi a creare quel capitale sociale e a essere una linfa straordinaria del terzo settore, la sua capacità di crescere, perché no, anche di altri settori come lo Stato, il profit, eccetera, nel tempo in cui hanno fatto degli apprendimenti formali, informali all'interno di queste organizzazioni. Di certo nelle nostre organizzazioni non fanno le fotocopie, non sono utilizzati per bassa manovalanza come accade nella pubblica amministrazione fin troppo spesso. E questo è il tema che andrebbe affrontato, quindi a cosa serve il servizio civile? Mi sembra che l'orientamento dell'articolato sia più che positivo, certo è che però dobbiamo parlare di ragazzi che vanno dentro organizzazioni che hanno una caratterizzazione molto precisa, che è quella di essere no profit e di essere quindi senza finalità di lucro, perché altrimenti svolgono un'altra attività, è un'attività di tirocinio formativo, ma non certo di servizio al paese, e al contempo che hanno quel livello che noi continuiamo a pensare che sia importante di democrazia. nel senso che le nostre organizzazioni insomma cercano di avere una pratica democratica che sia molto utile ai giovani, anche per far crescere il loro senso civico nel momento in cui poi diventano adulti. Certo, la partecipazione dal basso, la costruzione dal basso, su questo sono molto d'accordo con lei. Io avevo un dubbio che vedendo anche lì il testo non mi è passato, perché per un secondo ho pensato molto che fosse ci fosse in alcuni dei proponenti nel governo, in alcuni, no, non in altri di cui conosco la limpida buona fede, però in alcuni un po' la cosa vuol dire mettiamo un altro mattoncino delle politiche del lavoro per i giovani, come se fossero i mini jobs alla tedesca. Questo secondo me sarebbe un gravissimo errore. Anche lì bisogna vedere come viene disciplinata questa cosa del servizio civile. Non assolutamente so se... sì, assolutamente d'accordo. È chiaro che se leggiamo il combinato disposto, mettiamola così, tra l'articolo 4 e l'articolo 5, qualche pericolo ci potrebbe essere. Cioè se l'impresa sociale è un'impresa che distribuisce utili e quindi non è di interesse generale del paese, ma è di interesse legittimo. Certo, però diverso. Ma è diverso, è chiaro che potrebbe trasformarsi, perché anche quelle potrebbero accedere al servizio civile. Ecco, il rischio non sta tanto del singolo articolo 5, ma quanto in una lettura cross-cutting, mettiamola così, che potrebbe essere pericolosa. Oh, e invece veniamo ai vostri dubbi sull'impresa sociale, che sono un po' anche i miei, però mi interessa capire voi cosa pensate di questo tentativo un po' omologante, come devo dire. Ma insomma, detto quello che ho già detto prima, qui c'è un tema su tutti. Il problema è capire chi sono, qual è la natura delle organizzazioni di terzo settore. Se sono organizzazioni di partecipazione motivazionali, in cui uno si vuole occupare, come dire, dei malati di tumore piuttosto che degli anziani, piuttosto di beni culturali, dell'ambiente, eccetera. Esatto, ambiente, eccetera, è chiaro che bisognerebbe circoscrivere in maniera molto chiara invece lì si lascia una porta molto molto aperta al profit, che pure deve insistere anche su quelle aree, ma probabilmente con funzioni un po' diverse dall'essere l'attore principale. Cioè se è l'impegno civico dei cittadini quello che funziona, il punto è capire che rapporto c'è con l'impresa, e non certo, che può essere un rapporto molto significativo dal punto di vista dell'organizzazione, del sostegno economico e quant'altro, ma non certo del governo delle organizzazioni. Insomma, ecco, questo è il timore che abbiamo. Abbiamo già esperienze di organizzazioni anche importanti che sono sostanzialmente governare le imprese. Abbiamo visto che col decreto Onlus, delle Onlus, il 470, insomma, ci sono state imprese che si sono fatte la loro... Si sono infilate, come no, certo, esattamente, e questo secondo me è sbagliato. Comunque noi torneremo, quando si arriverà a un certo punto l'esame parlamentare, perché i partiti secondo me un pochino si scateneranno, torniamo con Pietro Barbieri su questo tema, perché interessa a milioni di italiani, ed è la forma dal basso di costruire un paese diverso, migliore, con i giovani che si avvicinano, non attraverso i partiti, a dare una mano a chi ne ha bisogno e a un paese diverso. Questa è la mia opinione, grazie a Pietro Barbieri, continuate con Radio 24, appuntamento lunedì. We'll be right back.